drop that beat, man, if you can. With all of your heart, it's free. Sono e sono stato per la libertà d'espressione. Poi un rito voodoo m'hanno dato fuoco, io l'ho pizzato. Uno stupido amico m'ha dato il primo sangue. Di colpo il collo stritolato. Uno sopra mi ha imposto una sua Bibbia, immolato alla causa dell'utopia. Così sia, ma poiché in classe il mio essere perso aveva urlato, non c'è stato come direbbe il teorema di Fermat. Da lì in poi su una freccia il teorema dello sfigato. Da lì in poi tutto m'ha declinato. Ciò che ami, ciò che mi ha permesso di vivere, cara amica, era il tuo sorriso, simile a un paradiso, col diavolo a fianco inciso il viso di una lacrima, ora fuori dall'arranco. Corro nuovo come un toro, come oro, come fuoco, il diavolo scomparso dal mio cuore santo, distrutto. Eppure la solitudine di un numero uno come me, ma come me non lo ritroverete facile. Una vera roccia che rotola su rotoli di carta, di pergamena. Una penna alchemica la sera, per te Franci, iscrizione onirica. La mia Bibbia sacra attraverso la luce dei tuoi sorrisi, che rivelavano tracce di luce, paradisi. D'un tratto, dove ora gli occhi nella giungla morente degli orchi invidiosi, burrascosi, così miei animi per rivedere te anche solo nella mente. Ciò che mi ha permesso di vivere, cara amica, era il tuo sorriso, simile a un paradiso, col diavolo a fianco.